Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, su Twitter digitando @luogoc, oppure scriveteci una mail con pareri, suggerimenti, se avete delle critiche, speriamo poche ma sono sempre ben accette, se costruttive, su luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è: si stava meglio quando si stava peggio, che è un po' il luogo comune, diciamo, per eccellenza. Il 28 ottobre 1922 migliaia di militanti fascisti marciarono militarmente verso Roma per farsi affidare il governo dall'allora sovrano Vittorio Emanuele III, incarico questo che verrà concesso due giorni dopo circa. Inizia così un regime consolidatosi dopo l'omicidio Matteotti, le leggi liberali di repressione di ogni libertà democratica, di durata quasi ventennale. Durante questi vent'anni che è successo? Verrà soppressa ogni libertà di stampa, ogni libertà di manifestazione del pensiero, verrà eliminata la democrazia parlamentare, la libertà di voto e di espressione, di riunione e di associazione in sindacati, sospeso il diritto allo sciopero e verrà dato massimo potere preventivo e repressivo alle forze dell'ordine per controllare i cittadini, fermare, arrestare ogni persona sospetta di essere contraria al regime, la quale poi verrà giudicata da tribunali speciali ed eventualmente condannata al confino. Insomma, sono stati vent'anni sicuramente caratterizzati da leggi liberticide, dalla mancanza di libertà, eppure mai periodo storico come il ventennio fascista ha inciso così profondamente nell'animo di questa nazione, fino a riproporre 60 anni dopo la fine del medesimo ancora una frattura tra la popolazione e una malcelata punzione autoritaria che di tanto in tanto pare riemergere qua e là nella nostra classe politica e anche nella popolazione stessa. Ma quanto c'è di vero su ciò che si dice del fascismo? Qual è la sua eredità e qual è il tragico insegnamento? Ne parliamo in collegamento telefonico col professor Angelo Dorsi, professore di storia del pensiero politico nel Dipartimento dell'Università di Torino. Professor Dorsi, buongiorno. Buongiorno. Professor Dorsi, senta, una prima domanda che in realtà, insomma, è fondamentale, ma vista la premessa che ho fatto, quindi leggi liberticide, un ventennio tragico per il paese, ma come fu possibile l'affermazione del fascismo? Beh, fu possibile innanzitutto grazie alla complicità delle istituzioni. La marcia su Roma che lei ha evocato del 28 ottobre 1922 fu in realtà, si era già bloccata quando il decreto era stato emesso, il decreto di stato d'assedio dall'ultimo governo liberale, il governo Facta. Quel decreto non fu controfirmato da Sua Maestà il re Vittorio Emanuele III. Il presidente del Consiglio Facta tornò al Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri reiterò il decreto, Facta ritornò dal re riproponendo il decreto e il re si rifiutò di firmarlo. Quindi di fatto la marcia su Roma non è stata, è stata una manifestazione certo violenta e eversiva che però ha potuto raggiungere il suo risultato soltanto grazie al ruolo attivo, apparentemente passivo, ma di fatto attivo del re, tant'è vero che un grande storico e giornalista del Novecento, Luigi Salvatorelli, ha parlato di un colpo di Stato del sovrano. La marcia su Roma portò, portò il fascismo al potere grazie a un vero e proprio colpo di Stato dei Savoia, di Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Questa è la ragione fondamentale della vittoria fascista su quel momento, ma prima del 28 ottobre 22 bisogna dire che l'appoggio delle istituzioni era stato molto forte, vale a dire l'esercito che dava ai fascisti i camion per le spedizioni militari, le associazioni soprattutto agrarie ma anche industriali che finanziavano indicavano perfino i bersagli da colpire, cioè leghe bianche e leghe rosse, organizzazioni contadine, cattoliche, socialiste, poi comuniste, le sedi del Partito Socialista, Partito Comunista, in qualche caso anche di Partito Popolare Cattolico, la complicità dell'arma dei carabinieri, la complicità delle forze di polizia, della magistratura che non incriminò praticamente mai nessun fascista, autore di delitti atroci e gesti di insubordinazione rispetto ai poteri costituiti, quindi ci fu una complicità delle istituzioni e delle classi dominanti, classi agrarie della Valle Padana e larga parte delle classi imprenditoriali del centro-nord. Ma professore, come mai si sviluppò nel paese, diciamo, questo terreno favorevole al fascismo? Lei dice appunto la magistratura non indagò, non incriminò l'appoggio dei carabinieri, l'esercito dava le camionette, cioè tutto questo è terreno fertile per quello che successe successivamente. Ma come mai aveva il benvolere il fascismo da parte della popolazione, insomma, da parte, importante? Sì, il movimento dei fasci di combattimento nasce nel 19 e realizza una sorta di controrivoluzione preventiva, cioè davanti alla rivoluzione minacciata dai socialisti, che era soltanto minacciata, no, all'insegna delle canzoni noi faremo come la Russia, eccetera, davanti a questa rivoluzione minacciata ma mai organizzata, di fatto il fascismo organizzò una controrivoluzione preventiva. Quindi si mise in evidenza il pericolo bolscevico, la vittoria bolscevica del novembre del 17 in Russia fece, no, riapparire sull'Europa, sulla scena mondiale, sulla scena europea, lo spettro del comunismo, e questo appunto eccitò le paure delle classi dominanti che anche in Italia poteva arrivare al potere il comunismo, e quindi davanti a questa paura, come dire, artatamente anche costruita, si organizzò una controrivoluzione preventiva con appunto l'appoggio delle istituzioni fondamentali dello Stato e sostenuta economicamente dalle classi dominanti. Questo è quindi davanti al per paura del comunismo si consegnò il paese nelle mani del fascismo. Dietro la paura del comunismo in realtà si voleva che cosa? Si volevano smantellare tutte le conquiste ottenute attraverso dure lotte dal tardo 800 in avanti da parte delle classi lavoratrici, cioè per esempio il fatto che nelle campagne non si dovesse più passare attraverso il caporalato, che oggi è tornato di moda per esempio, ma si dovesse passare nell'assunzione attraverso liste di collegamento, oppure il fatto che il movimento contadino socialista e cattolico aveva ottenuto per esempio che anche per la lotta contro l'assenteismo dei grandi proprietari terrieri che tenevano grandi appezzamenti assolutamente inutilizzati e infertili, no? Si ottenne di imporre ai proprietari una certa quantità di manodopera per mettere a frutto quelle terre, insomma tutta una serie di conquiste a protezione del lavoro che in realtà di cui godettero i benefici le stesse classi capitaliste, cioè grazie all'azione dei socialisti in realtà si poté sviluppare per esempio il capitalismo in Valle Padana, il capitalismo delle campagne. Però questo, la classe dirigente italiana era miope o addirittura cieca e non pensava che all'utile immediato, non era in grado di guardare lontano. E l'utile immediato era, diciamo, rappresentato appunto dall'ascesa al potere di Mussolini, che garantiva ordine e benessere, così lo vedevano appunto per le classi a cui appartenevano. Il fascismo poi quindi si diciamo afferma, dopo l'omicidio Matteotti nel 25 ci saranno una serie di promulgazioni di leggi, perché ovviamente per i nostri radioascoltatori che sono sicuro lo sapranno, però in generale è bene ricordare che non è che dal 29 ottobre il fascismo, certo, ha presentato lo stesso volto di dittatura con cui poi è passata la storia. Tutto un fenomeno di elaborazione, se ci vuole anzi un pochino dire quando è diventata proprio una vera e propria dittatura. Sì, aggiungo anche rispetto a quello che abbiamo detto prima che ancora Salvatorelli, lo storico che ho citato prima, ebbe tra i primissimi l'intuizione che il fascismo in realtà incontrò il consenso di una parte cospicua della popolazione, le classi medie, perché si presentò come il campione di quelle classi medie, le classi medie che non avevano una rappresentanza politica, le classi borghesi erano rappresentate dai liberali, le classi proletarie dai socialisti e poi dai comunisti, e il fascismo invece si presentò come il rappresentante delle classi medie che in quanto tale devono essere anche il nervo della nazione proprio in quanto medie, le classi medie che si erano viste un po' scavalcate, diciamo così, dalle due altre classi, soprattutto con la guerra mondiale, e quindi il fascismo fu la lotta di classe del terzo escluso, lo definì Salvatorelli, no? Ecco, detto questo, dal 29 ottobre in avanti comincia una rapida costruzione dello Stato, prima dittatoriale e poi più avanti totalitario. Una serie di emanazioni di provvedimenti, già subito uno dei primi, per esempio, fu l'obbligo ai ferrovieri di iscriversi al partito fascista. Perché i ferrovieri? Perché i ferrovieri rappresentavano l'avanguardia del proletariato organizzato in Italia, era una classe molto combattiva, che aveva una tradizione di lotta molto forte, e quindi imporre la tessera fascista significava, in alternativa c'era il licenziamento, significava appunto un gesto violento che doveva essere anche un'umiliazione per i ferrovieri. Oppure un altro provvedimento fu la creazione di un ufficio stampa e propaganda presso la Presidenza del Consiglio, quindi presso Mussolini, il cui compito era organizzare, quindi un po' alla volta questo ufficio diventò poi sottosegretariato, poi diventò ministero stampa e propaganda, e poi diventò nel 1937 il famigerato Minculpop, Ministero della Cultura Popolare, che organizzava l'informazione in Italia, cioè le notizie da dare, le notizie da non dare, la misura delle notizie, addirittura il taglio nei giornali, che cosa si poteva dire, cosa non si poteva dire, addirittura selezionava le foto del Duce, che egli stesso peraltro in parte selezionava perché era molto attento alla sua immagine, era un costruttore di immagini, oggi ci sono i professionisti, allora lo faceva praticamente Mussolini con questi uffici, quindi anche da questo aspetto il fascismo costruisce uno Stato dittatoriale e poi totalitario, badando un po' sia gli aspetti di comunicazione, Mussolini si rende conto per esempio che la cinematografia è l'arma più forte, come esattamente, si rende conto l'importanza della comunicazione, al suo tempo si provvede attraverso apparati repressivi che vengono potenziati e apparati legislativi, una serie di norme, ricordiamo che nel 23 si approva la legge Acerbo che poi si... Darà la maggioranza diciamo quasi assoluta ai fascisti, insomma. È una legge che non è diversa, molto diversa dal Porcellum, dall'attuale Italicum in discussione, insomma. Ecco, questo ci conforta sempre, professore. Esattamente, da questo punto di vista abbiamo tesaurizzato l'esperienza fascista, abbiamo preso quanto di peggio, quindi quella legge maggioritaria appunto diede poi ai fascisti la maggioranza assoluta, tenendo conto che i fascisti vanno al potere quando il re dà l'incarico a Mussolini di fare il governo, il partito fascista ha in Parlamento 35 deputati, cioè un numero risibile, quindi anche da questo punto di vista si trattò di un colpo di Stato del re, e quindi comincia questa progressione prima dittatoriale, e poi si arriverà dopo il 3 gennaio del 25 alla svolta, quando Mussolini, superata la crisi Matteotti, anche qui responsabilità del re, che in quel momento aveva la possibilità addirittura di far arrestare Mussolini, e si arriva dopo la crisi di Matteotti, la famoso discorso del 3 gennaio, quando Mussolini si assume la responsabilità politica, storica e morale della morte di Matteotti, e comincia la seconda fase di fascistizzazione, fase violenta, a cui poi seguiranno provvedimenti legislativi, cioè un pacchetto di leggi, le cosiddette leggi speciali dell'autunno 1926. Leggi fascistissime. Senta, professore, ma il fascismo, che di per sé è già con Si stava meglio quando si stava peggio, è diventato proprio uno dei luoghi comuni di eccellenza nei discorsi quotidiani, contiene, essendo un movimento durato 20 anni e contenendo al proprio interno numerose contraddizioni, contiene però altrettanti luoghi comuni. Allora io con lei, con ovviamente le risposte sempre consone un pochino al brevissimo tempo purtroppo che abbiamo, le sparo un po' di luoghi comuni, mi dà un po' il suo pensiero e anche un'analisi storica. Allora, luogo comune 1, chiamiamolo così, quando c'era il fascismo non c'era la mafia. Ma non è vero, tant'è che appunto lo stesso Mussolini, la mafia è un fenomeno molto più antico, preesiste al fascismo e sopravvive al fascismo. Mussolini manderà in Sicilia il famoso prefetto Mori, no? Il prefetto di ferro come è stato definito, che effettivamente comincia a fare un'opera di repulisti della mafia. Quando però comincia a toccare i gangli alla politica, cioè le relazioni della mafia con la politica e con i poteri costituiti e con le classi dominanti, a quel punto Mussolini richiama Mori, quindi vuol dire che Mussolini, come dire, adotta la logica che è stata poi riproposta recentemente da qualcuno, che con la mafia bisogna convivere, e quindi viene richiamato Mori e la mafia continua a crescere tranquillamente, arrivando poi... Quindi, insomma, la mafia c'era, era preesistente e continuerà, insomma. Assolutamente sì. Ok, senta, luogo comune 2. Il fascismo ha bonificato le paludi, su nuovi terreni ha edificato le città nuove, soprattutto nell'agro pontino, e verrà per sempre ricordato per le numerosissime opere pubbliche. Allora, sicuramente il fascismo fa una politica di opere pubbliche per combattere la crisi, gli effetti della crisi del 29, la politica canonica che si fa per combattere la crisi è quella delle opere pubbliche. In queste opere pubbliche spesso avevano un significato puramente esornativo, cioè di costruzione di immagine, cioè devono ricordare il fascismo, come dire, si è parlato di un totalitarismo di pietra, ogni regime totalitario vuole rimanere nei secoli attraverso opere che diano l'immagine della propria potenza, quindi molte di queste opere pubbliche hanno una loro utilità, altre non ce l'hanno, sono soltanto una costruzione di immagine, ma indubbiamente alcune di queste opere hanno avuto un significato positivo, appunto. La costruzione delle città nuove in realtà è anche legata appunto un po' al mito della romanità, cioè il fascismo, che si richiama molto al mito di Roma, vuole costruire le città nuove, appunto, come Romolo e Remo hanno con l'aratro tracciato il solco su cui si è creata la città Caput Mundi, allo stesso modo il fascismo vuole creare le sue città, perché bisogna lasciare appunto un segno, ma indubbiamente serve anche per procurare impiego in una forte crisi economica, e questo fatto di procurare impiego, procurare lavoro, significa anche un tentativo di costruire consenso, quindi indubbiamente questo dato c'è con i due aspetti, negativo e positivo. Altro luogo comune, il fascismo è stato nella memoria degli italiani ed spiega il motivo per cui 60 anni dopo stiamo ancora qui a parlarne, la prima forma, soprattutto in alcune zone d'Italia particolarmente sperdute, la prima forma manifesta dello Stato. Allora, diciamo che il fascismo è stato anche un tentativo di modernizzazione. Cioè, professore, quello che le dico io, nell'entroterra sardo, nella Calabria, nella Sicilia degli anni 20, nella Puglia, nelle lande magari bruciate dal sole della Puglia, in che maniera arrivava in questi posti il fascismo? Portava, e mi collego alla domanda al luogo comune di prima, portava delle opere pubbliche, portava bonifiche, portava una presenza dello Stato? Sì, certamente nelle plaghe più abbandonate d'Italia il fascismo fa sentire la presenza dello Stato. Tenga conto che il fascismo è un movimento ed ha un'ideologia fortemente statalista, il motto di Mussolini, che è quello di Alfredo Rocco, che è il vero grande architetto, come dice, giuridico e teorico del fascismo, è tutto nello Stato, nulla di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato, quindi lo statalismo è tipico del fascismo, no? Una forte volontà di accentramento e anche di far sentire la presenza dello Stato dappertutto, attraverso le strutture militari, quindi l'arma dei carabinieri, i posti di polizia, le preture, le procure della Repubblica, eccetera, eccetera, le procure del Regno, e così via, ma anche attraverso opere pubbliche o anche semplicemente, ma pensi ai monumenti, l'edificazione di monumenti, la creazione di piazze, che sono per lo più intitolate a Mussolini oppure a martiri della cosiddetta rivoluzione fascista, l'elevazione di archi con la M, a forma di M, quindi M come Mussolini, no? Archi d'ingresso nelle città, appunto, da questo punto di vista c'è un tentativo di ridisegnare anche il paesaggio d'Italia, e dappertutto le scritte, no, sull'anno tale dell'era fascista, F, che ancora oggi vediamo su qualche muro un po' sgarrupato d'Italia, no, di ruto d'Italia, il profilo di Mussolini inciso, anche questo era un modo di far sentire che il fascismo era ormai diventato identificato con la nazione, addirittura con la esteriorità della nazione, quindi il suo paesaggio, il suo territorio, le sue città, i suoi borghi, i suoi paesi, le sue campagne. Ma professore, un altro luogo comune, prima di passare a questo altro luogo comune, però mi interessa collegarmi a quest'ultima frase che ha detto, quindi ha lasciato un'impronta, però io mi ricordo, c'è una famosa, lo possono vedere tutti quanti i nostri radioascoltatori su YouTube, c'è un famoso passo di Pasolini, un'intervista a Pasolini che Pasolini fa in Riva al Mare, dove lui, parlando appunto delle città e del fascismo, dice che il fascismo in realtà non aveva lasciato nulla, non aveva lasciato nessuna eredità. Lei cosa ne pensa, insomma, della posizione pasoliniana riguardo questo periodo storico? Diciamo che Pasolini è stato un genio profetico, indubbiamente, che ha colto in anticipo molte tendenze, veramente con una capacità che oggi ci lascia allibiti, sbalorditi. Sul fascismo la sua posizione è stata spesso contraddittoria, perché in altri passaggi Pasolini rileva per esempio il fascino di queste città nuove, per esempio, no? Ma il fascismo in realtà per Pasolini è in fondo un po' anche gobettianamente l'autobiografia della nazione, come dire, il fascismo c'era già prima e ci sarà anche dopo in qualche modo, cioè in fondo, nonostante tutti gli sforzi coercitivi e propagandistici, il fascismo non modificò poi così radicalmente la società italiana, pur avviando dei processi nuovi, eccetera, eccetera, ma di fatto in qualche modo corrispondeva a una sorta di eterno carattere dell'italiano, e forse questa è anche la ragione, in qualche modo potremmo dire, della fortuna del fascismo, che poi si presenta sotto altre forme, perché in fondo il fascismo è sempre stato bastone, ma è stato anche carota, perché il fascismo ha goduto di consenso anche, un consenso costruito abilmente, perché noi dobbiamo anche rilevare il fatto che per la prima volta nella storia d'Italia si crea sotto il fascismo una macchina del consenso, non c'era mica mai stata prima, evidentemente, ma questa è un'eredità. La macchina del consenso creata dal fascismo rimarrà dopo, c'è una forte continuità soprattutto tra il fascismo e il post-fascismo, in realtà, malgrado gli sforzi della resistenza del biennio 43-45 di cancellare quel passato, in realtà larga parte di quel passato rimane, sia perché rimangono tutte le pubbliche istituzioni, rimangono i funzionari, i prefetti, i magistrati, i militari, i dirigenti, i gerarchi, eccetera, eccetera, rimangono ai loro posti, ma anche i professori universitari, cioè tutti quelli che avevano costruito il consenso ed erano stati l'anima istituzionale e culturale del fascismo, rimangono ai loro posti. C'è una continuità tra il fascismo e il post-fascismo, nonostante appunto lo sforzo e l'idea di molti resistenti di fare di quel biennio un momento di rivoluzione, di vera e propria rivoluzione, di cambiamento rivoluzionario. Era l'occasione storica per cambiare le cose e non ritornare al prefascismo, ma cambiare le cose creando quindi una Repubblica autenticamente democratica, fondata effettivamente sul lavoro. La Costituzione in fondo è stato il frutto più maturo, ma quella Costituzione poi è rimasta largamente inapplicata, disattesa. Per molti aspetti lettera morta, insomma. Senta, professore, oggi con anche quello. Senta, professore, un politico italiano alla cui persona ha legato un altro ventennio, sicuramente più recente a noi, parlando di noi, insomma. Sì. Disse qualche anno fa che il fascismo, e la introduco all'ennesimo luogo comune, lui è stato megafono di questo luogo comune, questo famoso politico italiano, che il fascismo non era crudele particolarmente con gli oppositori, ma li mandava al massimo in villeggiatura. Sì, il fascismo utilizza e amplifica un provvedimento che esisteva già, un'istituzione che esisteva già, il confino di polizia, lo amplifica e lo usa, diciamo, come primo step, come primo passo per la repressione. Cioè, faccio l'esempio di Antonio Gramsci. Antonio Gramsci viene arrestato il 9 novembre 1926, è deputato in carica e quindi gode della immunità parlamentare, viene arrestato in spregio dell'immunità parlamentare e dopo l'arresto vengono approvate le leggi speciali che dichiarano decaduti i deputati dell'opposizione. Viene arrestato e viene mandato al confino a Ustica. Dopodiché, dopo il confino, passa un certo periodo al confino, dopodiché c'è il processo e nel 28, arrestato nel 26, nel 28 c'è il processo e poi viene condannato a 20 anni di reclusione e muore, come dire, senza avere neanche completamente, se vogliamo, scontato la condanna. Diciamo che il decreto poi di libertà gli arriva mentre lui è agonizzante, per cui Mussolini cinicamente potrà scrivere un trafiletto sul giornale Popolo d'Italia, che era l'organo non del fascismo ma di Mussolini, in cui scrive: Antonio Gramsci è morto da uomo libero. Sì, tecnicamente era vero. Ecco, l'esempio di Gramsci ci dimostra già, voglio dire, il fascismo ha fatto morire Piero Gobetti, Giacomo Matteotti, Don Minzoni, i fratelli Rosselli, Antonio Gramsci, e poche settimane dopo fa uccidere in maniera veramente trucida, orribile, Carlo Nello Rosselli. Bastano già questi nomi per indicarci, e il confino di polizia era talora un passaggio verso poi la prigione, oppure era una punizione minore, diciamo, per persone che venivano semplicemente in qualche modo coinvolte perché il loro nome era trovato in un'agendina, no? in un taccuino di qualcuno, faccio l'esempio, che ne so, di Cesare Pavese, che all'epoca era un uomo assolutamente apolitico e anche impolitico, viene arrestato e mandato in confino a Brancaleone Calabro perché semplicemente era amico di alcuni che erano antifascisti, insomma non era mai stato, anzi addirittura Pavese si era perfino iscritto al fascio per non avere noi, ma non gli era bastato. Per dire, quindi era un modo, oltretutto aggiungiamo un altro elemento, cioè il fascismo crea e fa un investimento enorme, spende cifre enormi per creare una rete di spionaggio interna. Oltre alla polizia politica c'è la polizia segreta, l'Ovra, che Mussolini crea con questo nome minaccioso, Ovra, di che mai non si è saputo cosa volesse dire, doveva ricordare forse una piovra, oppure opera vigilanza e repressione dell'antifascismo, questa polizia segreta che in quanto segreta non si sapeva chi erano i suoi agenti, e l'Ovra reclutava tra gli italiani, ma non solo i portinai, che di solito spesso erano agenti dell'Ovra, ma tra insegnanti, studenti, impiegati, macellai, falegnami, cioè qualunque mestiere, e quindi tu ti guardavi intorno e non sapevi che il tuo amico, il tuo collega di lavoro, il tuo vicino di pianerottolo poteva essere un agente dell'Ovra. Poteva essere un potenziale, la cosiddetta cultura della delazione, no? Questo è il regime totalitario, questo è il regime totalitario. Professore, nell'Italia del 2014, lei che di mestiere insegna, insomma, anche questo periodo storico ai suoi studenti, gentilmente ai nostri radioascoltatori, saranno alcuni un po' più attempati, altri più giovani, meno giovani, insomma, idealmente a un ragazzo di 20 anni, che significato ha essere nell'Italia del 2000, nell'Europa, nel mondo del 2014, essere antifascista? C'è chi sostiene che l'antifascismo sia una dimensione esistenziale o spirituale, io non so se lo sia, ma certamente ritengo che bisognerebbe stare attenti alle riproposizioni del fascismo sotto altra forma, sotto altra specie. Non c'è solo il fascismo che in qualche caso si sta ripresentando, in Ucraina la cosiddetta rivolta democratica è stata organizzata largamente addirittura da gruppi neonazisti. E sostenuto dall'Europa. Una fascista si sta manifestando in varie località, in varie nazioni europee, ma quello che a me fa più paura e su cui invito a riflettere i miei studenti sono i processi di trasformazione della democrazia, quella che qualcuno chiama crisi della democrazia o post-democrazia. Ecco, secondo me il pericolo più grande è quello, che passa attraverso provvedimenti legislativi, per esempio il cambiamento delle leggi elettorali, per esempio la cancellazione di un pezzo di Costituzione e soprattutto l'eliminazione un po' alla volta, mattone dopo mattone, di quel grande edificio che è lo Stato sociale, cioè il welfare state, che è stato costruito lungo i decenni e oltre un secolo e mezzo, diciamo, ma costruito dal basso, attraverso le lotte dei lavoratori di tante generazioni che sono finiti in carcere, sono morti, stati uccisi in scontri di piazza con le forze dell'ordine, uccisi dai fascisti, eccetera. Ebbene, questo grande edificio, lo smantellamento di questo grande edificio dello Stato sociale, che vuol dire lo Stato che si occupa dei cittadini che hanno meno, dei cittadini che sono più deprivilegiati, i cittadini che hanno più bisogno. Questo è lo Stato sociale. Ebbene, quello Stato sociale costruito lentamente, lungo un secolo e mezzo, si può dire che ha raggiunto il suo apice negli anni 50 e 60 a livello europeo, ebbene, quello Stato è stato messo in crisi un po' alla volta, adesso stiamo arrivando, soprattutto negli ultimi 25 anni, dopo l'89, stiamo arrivando al suo smantellamento, che è una cosa gravissima, perché la democrazia senza Stato sociale, vuol dire lo Stato della cittadinanza, lo Stato dei cittadini e delle cittadine, non è più democrazia, ma diventa, come hanno notato molti studiosi statunitensi, diventa semplicemente plutocrazia, il potere dei ricchi. Questo oggi è il vero pericolo, il vero nuovo fascismo. E quindi essere antifascista, professore, vuol dire opporsi a questo smantellamento del welfare, delle politiche sociali, delle politiche che guardano a certe fasce della popolazione? Sicuramente, se il fascismo oggi è, a mio avviso, il pericolo maggiore viene da questo tipo di fascismo che si presenta sotto vesti democratiche, oggi essere antifascisti significa quindi difendere lo Stato sociale, non solo difendere la Costituzione, ma difendere lo Stato sociale. Questo oggi è la grande battaglia su cui dovremmo fare una barricata, fare per incitare Salvemini, testuggine, a resistere. Professor Dorsi, io la ringrazio per essere stato nostro ospite e per le sue grazie parole. Grazie mille. E saluto salutando il professor Dorsi e ringraziandolo per essere stato nostro ospite, appunto, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittàaperta per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio. In particolar modo in queste giornate, insomma, la radio sta vivendo un periodo un po' particolare, perché dal martedì 25 marzo, appunto, è iniziata un presidio presso la Regione Lazio, regione che dopo 15 anni non vuole rinnovare la convenzione della diretta radiofonica del Consiglio regionale. E il taglio ad un servizio di pubblica utilità è un attacco molto grave al diritto dei cittadini all'informazione indipendente e alla trasparenza. È un modo per strangolare economicamente un'emittente storica dell'etere di Roma e del Lazio. Quindi invito tutti i nostri radioascoltatori a sostenere attivamente Radio Città Aperta, sia andando appunto a trovarci al presidio, sia sostenendo in generale un'informazione trasparente e indipendente. Sul sito www.radiocittàaperta trovate come appunto sostenerci anche dal punto di vista economico. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 13:30. Ricordiamo, se usate il computer, come immagino sia così, di andare subito su Facebook e aggiungermi Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, Twitter @ Luogo C, se vi piace cinguettare, oppure se siete più grafomani, una bella mail a luogocomune.radio@gmail.com. Sempre gli 88.9 di Radio Città Aperta, sempre Valentino De Luca, un buon venerdì e soprattutto un buon weekend. Ciao!